Pallone. Di Elisabetta Fiorito. Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. In questo momento di chiusura c'è chi decide di recitare sui pianerottoli dei condomini, un'idea della compagnia Peso Specifico di Modena, come ci spiega Roberta Spaventa. Chi è? Teatro Express! Ehi, ciao! Teatro Express è un progetto che porta i monologhi o le fiabe per i bambini sui pianerottoli oppure nei giardini privati, per continuare a mantenere quel filo tra le persone, perché è un teatro il nostro di comunità, nasce da progetti del passato e vede e guarda al futuro per poter continuare ad essere presente anche nei luoghi che non sono quelli teatrali. In un momento come questo abbiamo vissuto, perché adesso lo possiamo dire dopo aver iniziato dall'8 di dicembre, che abbiamo cominciato a vivere veramente la relazione e la sorpresa, perché per lo più sono persone che ricevono un regalo pensando di aspettare un express, un pacco dei fiori, lo stupore delle persone ma anche la commozione. E devo dire che noi stessi come attori e attrici sui pianerottoli sentiamo una fortissima emozione, perché è quasi un teatro tu per tu. Ma in un momento come questo, dopo, dove le relazioni sono davvero scarse e difficili, e dove c'è bisogno, il teatro è davvero necessario, e questo per noi è un grido di esistenza ma anche di necessità, perché il bisogno di relazione è anche prevenzione psicofisica, è un atto per noi poetico e politico di forte importanza, di grande importanza. Così noi possiamo osservare il procedere di questo nostro mondo. Erano le 9 fino a poco fa e saranno le 11 fra un'ora. E così d'ora in ora noi mortali maturiamo, maturiamo. E così d'ora in ora ci corrompiamo, infradiciamo. Il progetto è un progetto che da subito è stato accolto, prima di tutto dal Comune di Modena e l'Assessorato alla Cultura, che ci ha sostenuto da subito, e successivamente è stato accolto dal pubblico, moltissime le richieste sia per adulti che per bambini, e quindi c'è tutta un'organizzazione dietro di calendari, messaggi, perché noi portiamo anche poi dei messaggi scritti sulle pergamene per coloro appunto che ricevono il dono. Teatro Express. Chi è Elisa? Sei tu? Ho una consegna teatrale per te. Oddio! Quindi sarebbe il caso che tu ti mettessi comoda dove preferisci e io ti consegno quello che ti è stato dedicato. Quindi l'organizzazione è complessa, il telefono squilla tanto, moltissime anche le mail, e noi facciamo tutto, quindi siamo molto in ballo, perché Peso Specifico è composto prevalentemente, diciamo, da 3 persone: Alessandra Merio, Santo Marino e io, che sono Roberta Spaventa, dove appunto ci siamo coinvolti sia da un punto di vista organizzativo che prettamente artistico. Pensiamo che sia l'inizio di una presenza che vogliamo portare avanti come format, anche trasformandolo, ma comunque un format che arriva nei luoghi e che continua a portare avanti l'idea di un teatro di comunità. Che cosa possiamo fare, bambini? Avete forse un'idea? Sì! Prova a dirmi. Possiamo... Sì? Per informazioni basta scrivere a pesospecifico@gmail.com. A Terni adesso, dove è in streaming dal Festival Opera Incanto l'opera delle Filastrocche di Virgilio Savona, sui testi tratti dalla celebre raccolta di Gianni Rodari. La regia è di Graziano Sirci. Signori e buona gente, venite ad ascoltare. Un caso sorprendente andremo a raccontare. È successo a Milano e tratta di un dottore che è caduto nel video del suo televisore. L'opera delle Filastrocche nasce da una raccolta postuma di Gianni Rodari, Filastrocche lunghe e corte che Virgilio Savona ha musicato. Non ha una trama o un soggetto ben definito, ma unisce una serie di poesie, di tableau vivant separati. L'opera è divisa in 6 tematiche ben distinte e caratterizzate. Per il nostro spettacolo ne abbiamo scelte 3: le città, i mesi e le parole. L'opera delle Filastrocche è un'ampia raccolta di condizioni d'animo: gioia, pena, rabbia, dolcezza, voglia di vivere, voglia di sorridere e soprattutto voglia di giocare. Filastrocca canterina, canta il gallo ogni mattina, canta nel soprano canta il tenore con la mano sopra il cuore. Sono dei quadri musicali. Il compositore definisce l'opera delle filastrocche un'invenzione per voci, coro, quartetto jazz rock e orchestra, una forma di teatro musicale composita ed eclettica, recitazione, canzone, musica rock, musica folk e musica classica. Per la mia regia ho immaginato una classe di quinta elementare in un giorno di scuola dove una maestra spiega ed interroga dei piccoli scolari sulle filastrocche di Gianni Rodari, il tutto accompagnato da contributi video che evocano alcuni passaggi del testo. Un'attrice che interpreta la maestra, due cantanti e sette coriste nel ruolo dei piccoli allievi. Il nostro scopo è trovare un nuovo linguaggio che possa raggiungere questo rinnovato genere di pubblico, sostitutivo della tradizionale platea, attraverso una forma diversa di relazione tra spettatore e attore. E durante le dirette online, infatti, il pubblico, attraverso una chat e i social, potrà intromettersi personalmente nella storia e nel metodo di rappresentazione che abbiamo scelto, colloquiando direttamente con gli artisti. L'opera è visibile sul sito www.operaincanto.com e sulla pagina Facebook di Associazione Incanto. A Figline Valdarno, Firenze, la compagnia Camperstrasse mette in scena Oz, liberamente tratto dal Mago di Oz, messo in streaming dalla piattaforma Sonar di Fabrizio Trisciani. Come nella vita vi troverete di fronte a delle scelte. Io non vi dirò cosa scegliere, ma sappiate che tutto ha un senso. Anche quello che ha un senso sembra non avercelo. Opzione 1, opzione 2, opzione 3. Oz rappresenta un regalo che il comune di Figline e Incisa Valdarno ha deciso di fare ai suoi concittadini per queste feste natalizie a tema Covid. Ma lo sai che ho ucciso la strega dell'Est? Ebbene sì, il mio primo atto da rifugiata politica in queste terre straniere è stato quello di uccidere la terribile strega dell'Est, a cui ho rubato le scarpe, le vedi belline? No. Salve, sono l'uomo di latta. Un uomo di latta! Saremo molto lieti della tua compagnia, vero? Lietissimi! E secondo voi questo Oz potrebbe darmi un pochino di coraggio? Fatto! Di già! So bravo! Oz, che cos'è? Non è uno spettacolo di teatro, non è un film, non è un videogame. Probabilmente è un po' l'insieme di tutti questi linguaggi mixati insieme per provare a raccontare uno dei classici dell'infanzia più importanti della letteratura americana, il meraviglioso Mago di Oz. L'opera è un percorso interattivo dove lo spettatore può incidere sulla storia e sul suo finale, dove può decidere che cosa approfondire e cosa no. L'opera si caratterizza per una serie di bivi dove chiamiamo direttamente in causa bambini e famiglie per votare e per decidere come si dovrà dipanare la storia. Per partecipare è necessario prenotarsi sulla piattaforma Il Sonar, si riceverà un codice che verrà inserito e quindi speriamo che tanti siano gli spettatori. Lo spettacolo sarà visibile stasera alle 21.15 e domani 27 dicembre alle 18 sulla piattaforma www.ilsonar.it. Finiamo a Roma, dove Enrico Vulpiani mette in streaming su Spotify le disavventure di un assistente parlamentare di un mondo immaginario. Irrompe in casa trafelato Oscar Viscidini, capogruppo alla Camera del Tumulto. Lio, ma tu qua stai? Dove sta? Ma dinda la commissione brutto ambiente! Chi di tuo gruppo nostro si stanno a cavigliare su budelli? Oh signore, sta forse sgorgando del sangue? Zampilla? Spumeggia? Nonostante laurea di prestigio, a Montecitorio e Palazzo Madama si vive e ci si confronta come in tutti i luoghi di lavoro. Si incontrano moltissime persone scrupolose e preparate che rappresentano il motore vero e proprio del nostro Parlamento. E si incontrano anche altre persone che semplicemente non dovrebbero trovarsi lì per mancanza di preparazione culturale, ma soprattutto umana. Ma c'è una complessità da esplorare che va oltre la gratificazione che ci offrono i luoghi comuni. Assistance è uno spettacolo teatrale che offre il biglietto per un viaggio esilarante e fin troppo reale nei palazzi del potere di un paese immaginario, ma molto simile al nostro, attraverso le storie di probabili collaboratori parlamentari. Una sorta di lente di ingrandimento sulle contraddizioni, le debolezze e le meschinità umane, prima ancora che politiche, in cui odiamo riconoscerci. Ma che fai dicendo? I nostri miracolati stanno semplicemente dibattendo sull'isola di Budelli. Certo, l'isola appartenente all'arcipelago di Illa Maddalena, situata all'estremo nord della Sardegna presso le Bocche di Bonifacio. Tacci tu, sei in drago in geografia. No, è che voleva comprare il papi, però sopra c'era il vincolo ambientale. Ma poi ha risolto opzionando una piccola antilla. Per fortuna in questa fase difficile la tecnologia, oltre ad averci trasformato in consumatori compulsivi 24 ore su 24, ci offre anche utili strumenti di divulgazione. Così ho pensato di tradurre Assistance in un podcast, che è una via confortevole e complice, proprio come la radio, per rendere la quarta parete una finestra sul mondo intero, facilmente fruibile a chiunque abbia la curiosità e il piacere di ascoltarci. E per colpa di Mohamed dovremo consentire le trivellazioni, autorizzare il tab e calarci le braghe sulla tab. Si dice Mahmood. Il link è anchor.fm/unvulpianiidee/episodes/assistance. E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it, che potete riascoltare la puntata su podcast, dove troverete anche gli indirizzi streaming degli spettacoli. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, vi auguro un buon anno e vi aspetto sabato prossimo.